Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e adesso partiamo subito con un lavoro, non so, di decretazione. C'è un'agenzia appena battuta, il riferimento chiaramente è il Consiglio dei Ministri che è in corso e il tema grosso è la riforma del mercato del lavoro. Leggo testualmente l'ANSA: Consiglio dei Ministri approvato, salvo intese, il disegno di legge sulla riforma del lavoro. La decisione dopo 5 ore e mezza di discussione, il Consiglio dei Ministri ha approvato salvo intese. Ma che cavolo vuol dire salvo intese? Questa chiedo veramente scusa, ma non riesco a capire. Salvo intese, il disegno di legge sulla riforma del lavoro. La decisione dopo 5 ore e mezza, vabbè. Poco prima è intervenuta anche il Ministro Fornero, che ha fatto una breve apparizione in videoconferenza durante un convegno della Fondazione Cariplo e ha detto è un Consiglio dei Ministri per me molto impegnativo, vorrei che tutti i temi venissero poi illustrati dal Presidente Monti. Però chiedo anche in regia, datemi aggiornamenti, perché il flash d'agenzia che dice approvato salvo intese dei partiti, immagino io, cioè salvo modifiche parlamentari, boh. Comunque, questo è quello che riguarda il mercato del lavoro. Oggi ci occuperemo meno del mercato del lavoro e più del rapporto tra imprese e banche, perché ci sono dei dati abbastanza allarmanti dell'ABI, ma anche di quello che sta capitando sui mercati, perché purtroppo dal Portogallo, dalla Spagna e dagli spread relativi a questi paesi stanno arrivando notizie preoccupanti. Tra l'altro gli analisti sulla Spagna, ne parleremo nella seconda ora del programma, temono il fallimento. Ora mi do il gufo da solo, così la facciamo breve, perché lo spread spagnolo è a 366 punti e quindi quanto costa la differenza tra quanto costi la Spagna indebitarsi rispetto a quanto non costi la Germania. Però ed è salito, ma è salito anche il nostro, è a 318, il Portogallo è a 1077 punti. Però molti analisti, a partire dal capo economista di Citigroup, Willem Buiter, ha detto che i mercati temono che il paese non riesca ad evitare una ristrutturazione del debito, che vuol dire il fallimento pilotato. Mi do il gufo e poi partiamo con la notizia in breve. È arrivata anche la seconda agenzia, ma mi chiarisce poco rispetto alla prima. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, salvo intese, il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. Si tratta, si legge in una nota di Palazzo Chigi, di una riforma lungamente attesa dal Paese, fortemente auspicata, con l'intento di realizzare un mercato di lavoro dinamico, flessibile e inclusivo, capace di stimolare lo sviluppo della competitività. Tutta fuffa. Il resto però, insomma, non ho capito, salvo intese di chi? Il famoso disegno di legge salva intese. Andiamo avanti. Dicevo, preoccupazione sulla Spagna e sul Portogallo. Tra l'altro in Portogallo i comuni e le municipalità dell'intero paese sono praticamente hanno già dichiarato il fallimento. Dicono che sono schiacciate da 6 miliardi di anzi 9 miliardi, scusatemi, di euro di debiti. Se fossimo una società la chiameremmo insolvenza, ha dichiarato il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Portoghesi, Fernando Ruas. Come vanno i mercati intanto? Dopo il forte calo di ieri, oggi la situazione è invariata: 003 Milano, 002 Parigi, 009 Francoforte. Tutti prefissi telefonici, 007, Londra non si smentisce mai per Londra. e l'America più 0,27%. Bene però Mediolanum, più 4,5%, Buzzi Unicem più 4,30%, Enel più 4%, Ferragamo più 3,5%, Exor più 2,80%, Impregilo più 2,60% come Diasorin, il 2,30% lo guadagna Pirelli, l'1,70% ST Microelectronics, l'1,40% rialzo di Ansaldo CTS. Chi perde il Monte dei Paschi 2%, A2A meno 1,5%, SNAM meno 1,30%, Generali meno 1,20%, Telecom meno 1%, Terna meno 0,80%, Comeni e TOZ Euro a quota 1,32,65. Il Presidente della Repubblica Napolitano ai giornalisti che gli facevano notare con la preoccupazione anche dei Vescovi sulla parte dell'articolo 18 che riguarda la crisi economica, la parte in caso di licenziamento economico, Napolitano ha detto non ci sarà una valanga di licenziamenti. E poi ha aggiunto: il problema più drammatico è quello delle aziende che chiudono e dei lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, non per l'articolo 18 ma per il crollo delle attività produttive. Però qui c'è un controsenso, cioè se il Presidente della Repubblica, con massimo rispetto, ammette che perdono il posto di lavoro i lavoratori perché crollano le attività produttive, vuol dire che in Italia c'è già licenziamento economico, cioè non è che non ci sia, attenzione. E poi Presidente, noi l'abbiamo chiamata Re Giorgio, lei è stato un grande nel gestire la crisi, ma come si fa a dire non ci sarà una valanga di licenziamenti? Non lo sappiamo ancora, cioè articolo 18 non articolo 18, no? Avremo ospite il presidente della Confcommercio, e mi riferisco al presidente Sangalli, perché oggi la Confcommercio ha diffuso dati, ha aperto una 2 giorni di lavoro a Cernobbio, allarmanti. Il commercio in Italia è andato indietro di 14 anni, i consumi sono ai livelli del 1998, già se ne era accorta l'Istat, e il PIL ai livelli del 1999. I sacrifici sono ai da record, le tasse sono ai massimi. Ma non erano sempre pieni i ristoranti, no? E chiudiamo con le bisarche. Nuove fermate a Pomigliano e Cassino. Lo sciopero delle bisarche, che dura da oltre un mese, sta provocando danni particolarmente gravi per Fiat Group Automobiles. Fermate appunto le attività a Pomigliano e Cassino. E tra l'altro, il Lingotto in una nota ha segnalato come in questi giorni, nell'ambito della protesta delle bisarche, si stiano verificando numerosi episodi di violenza, tra cui incendi di automezzi, minacce e aggressioni da autisti che non aderiscono allo sciopero. Scrive un ascoltatore: Enel Green Power, forse ho letto solo Enel e ho accorciato il Green Power, no? È Enel Green Power che oggi presentava il piano industriale che guadagna il 4%. Enel non guadagna il 4% e guadagna molto molto meno. Tra l'altro Terna in flessione dello 0,84%, Enel adesso è meno 0,4%. 349-238-6666 per i vostri sms. Primo tema: banche e imprese. Eh sì, torniamo a parlare del rapporto banche-imprese, perché purtroppo, dico purtroppo, gli spunti ci sono offerti anche dalla cronaca. È la stessa ABI, ossia l'Associazione delle Banche Italiane, oggi a segnalare che per la prima volta da quasi 2 anni, per la precisione dell'aprile 2010, i prestiti delle banche alle famiglie e alle imprese sono cresciuti, quindi sono cresciuti, ma meno dell'1%. Ed è un continuo rallentamento, perché a gennaio era più 1,90, a dicembre era più 2,3, a novembre era più 3%, adesso siamo a più 0,96. Se è avanti così, io mi auguro di no, ma chiaramente arriveremo a un dato vicino allo zero, cioè zero crescita nei prestiti concessi alle imprese e alle famiglie. Non vuol dire zero prestiti, vuol dire zero crescita. o 0,90% come in questo caso. Tra l'altro il rallentamento dei finanziamenti è stato più forte per le imprese, dove i finanziamenti sono cresciuti solo dell'1%, che per le famiglie, dove i finanziamenti sono cresciuti del 3,2%. Certo, la difficoltà delle banche si vede anche dal dato sempre diffuso dall'ABI oggi sulle sofferenze. Le sofferenze bancarie lorde sono risultate pari a 107 miliardi a fine gennaio 2012. Siamo a 217 milioni in più rispetto al mese prima e 16 miliardi di sofferenze bancarie, cioè di crediti che sono diventano difficilmente esigibili. Di sofferenze bancarie, dicevo, rispetto al gennaio del 2011, più 18% nelle sofferenze. E poi nel 2012 ci si attende, se lo attende il Centro Europa Ricerche, il CER, una stretta nei finanziamenti pari a 200 miliardi. Questo, secondo Prometeia, può voler dire 25.000 imprese a rischio e 625.000 posti di lavoro, anche perché nel frattempo c'è anche l'altro grande tema, e cioè le imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione, 70 miliardi di euro. Se pensiamo anche ai crediti fiscali, arriviamo a 100 miliardi. Pensate che in Europa la pubblica amministrazione, complessivamente i crediti che i privati vantano nei confronti della pubblica amministrazione in tutta Europa, è una cifra pari a 180 miliardi. Vuol dire che praticamente l'Italia da sola fa metà di tutti i crediti che vantano le imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Cioè tutti gli altri paesi messi assieme sono in ritardo nei pagamenti per una somma identica a quella italiana. La dice lunga su quanto drammatica sia la nostra situazione e quanto poi anche il governo utilizza la formula che vuole, bot, credito d'imposta, ma deve trovare una soluzione. Non è possibile avere 70 miliardi di debiti verso le imprese che non si pagano, si pagano a 200, 300, 400. Cioè. Allora, ne parliamo, come spesso facciamo in questi casi, con degli esempi concreti. I dati aggregati ve li ho già dati. Spesso portiamo imprenditori, soprattutto volutamente piccoli, perché è chiaro che la grande impresa, è inutile nascondersi, ha un altro approccio con la banca e la banca ha un altro approccio con la grande impresa. Ringrazio allora Giacomo Leva, amministratore unico di Leva Arti Grafiche, che è un'azienda appunto che stampa a Sesto San Giovanni. Buonasera Leva. Buonasera. Voi siete nati nel 72, avete un fatturato di 7 milioni di euro, 45 dipendenti, capannoni industriali per 6.000 metri quadri, avete varie commesse, cioè, quindi stampati i cataloghi della casa d'aste Sotheby's, della Sellerio, casa editrice, della Campari, della Oepli, Mediaset, insomma, fate gli stampatori e anche le sole 24 ore, a cui lei ha scritto una lettera aperta. Non stampate il giornale, però. No, assolutamente. Sennò altro settore. Ci fraintendiamo, ecco. Ma stampate anche iniziative editoriali del Sole 24 Ore, certo. Dicevo, lei già in tempi non sospetti, 3 anni fa quasi, mandò una lettera al Sole 24 Ore denunciando un trattamento che la banca sua storica, tanto i nomi li facciamo qui, siccome ne abbiamo fatti tanti faccio anche questo, è Intesa San Paolo. Sono in bilancio. È nel bilancio, giusto. Intesa San Paolo, la sua banca storica, da quant'è che aveva un rapporto lei con Intesa San Paolo? Dal 72, dall'inizio dell'attività. E che cosa è successo nel 2009? Nel 2009, in modo relativamente indolore, mi hanno chiesto il rientro di tutte le linee di credito. Relativamente indolore perché dilazionato un pochino nel tempo e anche perché le cose non erano ancora arrivate a una situazione pesante. Per cui in quel momento non ci fu grossa difficoltà a rientrare di cifre che non erano leggere, perché le linee di credito rappresentavano una cifra intorno ai 700.000 euro. Mm-hmm. Chiaro che adesso la sentiamo molto di più, perché no, se adesso, avessimo ancora quella linea di credito sarebbe diverso. Però andiamo con il gruppo Intesa San Paolo, che usiamo come esempio, abbiamo parlato nei mesi passati di Unicredito, di Ubibanca, del Banco Popolare, per cui non c'è nessun problema. Nessuno ce l'ha con Intesa San Paolo, ma noi stiamo dalla parte di tutti coloro i quali anche sono in difficoltà. Allora, dicevo, Intesa San Paolo le annuncia a sorpresa che interrompe la linea di credito. La motivazione, così facciamo capire anche agli altri? Una motivazione vera non c'era, c'era una probabile caduta di fiducia, un pensare che sul breve non ce l'avremmo fatta. Non danno una vera giustificazione, trovano delle scuse ufficiali che possono essere la centrale a rischi, che peraltro allora aveva problemi zero. Non gliele danno sostanzialmente delle giustificazioni vere. È una decisione che prendono autonomamente. Allora, anche qui, per essere sempre molto equilibrati, una banca ha tutti i diritti, direi quasi il dovere, di applicare quella che si chiama sana e prudente gestione, anche perché i soldi che la banca presta sono soldi nostri, sono soldi di chi li ha depositati in banca, per cui nessuno vuole dire, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, che la banca deve erogare e non guardare a quella che appunto attraverso la centrale rischi la rischiosità del soggetto. Le sofferenze bancarie le ho appena lette e ci sono. Si tratta di capire se tu vai a restringere il credito e quindi a chiudere le linee di credito in maniera indistinta come ordine di scuderia, o se lo fai in maniera ragionata, cioè caso per caso. Allora, nel caso suo le annunciano questo, c'è un crollo, un calo di fiducia nei suoi confronti. Voi invece cosa avete fatto a quel punto? Perché 700.000 euro non era poco. No, non era assolutamente poco. Cioè il 10% del fatturato. In quella intervista, in quell'articolo, in quella lettera, io sottolineavo soprattutto il fatto che di fronte a un atteggiamento di San Paolo di questo tipo, altre banche invece mi sostenevano. E avevo diviso sostanzialmente la tipologia, chi non ti dà fiducia, chi te ne dà e chi rimane, io lo chiamavo nel limbo, perché non ti dà di più ma non ti toglie neanche le linee di credito. Quindi noi siamo andati avanti sostanzialmente con due banche importanti che ci hanno aiutato e ci stanno aiutando tuttora. Questo sarebbe a mio avviso anche un buon segnale, cioè in un mercato concorrenziale di banche che si fanno concorrenza ci sta tutta che una banca per motivi suoi ritiri una linea di credito e poi però altre due banche gliela offrono, per cui insomma... Certo, però c'è una contraddizione, cioè nei numeri, cioè i numeri elaborati da una banca sono in contraddizione con quelli elaborati diciamo dalle altre due, oltre a quelle cioè che lei dice rimaste. Era rischioso per una banca e non lo era per altre due, probabilmente, perché questi sono i fatti. Sì, io amo sempre fare l'avvocato del diavolo, in questo caso lei mi fa difendere le banche, però dico magari in quel caso Intesa ha fatto un ragionamento per cui preferiva rientrare, altre banche non avevano così tanto bisogno di rientrare. Certo, comunque parte del libero mercato. Comunque lei invece non ha chiuso, per fortuna dei suoi dipendenti, no, e sua. E come sono andate le cose nel 2010-2011? Allora, 2010-2011 sono stati leggermente migliorativi, anzi rispetto al 2009 sicuramente, per un piccolo aumento di fatturato, per delle marginalità che sono tornate e quindi il momento è ancora difficoltoso, perché lo vediamo nella diminuzione delle commesse, nella diminuzione dei prezzi, perché la concorrenza è diventata veramente spietata. Ci sono prezzi di mercato che sono ingiustificabili e allora li accetti o non li accetti, o accetti delle vie di mezzo. Ecco, noi siamo arrivati a questo livello. Però è il futuro che non... Se uno è serio, non riesce a dare un'idea di futuro. Si vive quasi alla giornata. Questo è il problema vero. Ecco, ma allora mi faccia sempre difendere le banche. Insomma, una banca che giustamente ascolta questo ragionamento dice vabbè, se tu vivi la giornata e il futuro è incerto, forse anch'io faccio bene a non erogarti troppo credito, no? Sì, però è un discorso generale, non è soggettivo. Perché quando arrivi alla soggettività ti puoi anche dire ho sbagliato tutto, cambiamo tutto. Il problema è che noi abbiamo contatti quotidiani con clienti, fornitori di varie dimensioni e le voci sono univoche, cioè non c'è nessuno che vede un futuro roseo, non lo vedono neanche le statistiche peraltro. No, di quelle ci occupiamo sempre, poi in realtà quando ci caliamo nel... Devo dire che purtroppo le devo dare ragione, purtroppo non perché non mi piace dare ragione, ma perché anche come esperienze personali, dai ristoranti al negoziante, al tassista, al mercato, visto che io al mercato ci vado, insomma, il coro è unanime, ma proprio con dati, oserei dire, quasi empirici, cioè il ristorante che dice guarda, facevo 70% di coperti, lo stesso ristorante fino a novembre. Poi anche voi avete avuto la sensazione che da novembre in poi si sia fermato tutto? Un po' sì, più? Abbastanza. Noi abbiamo avuto... Perché tutti citano questo novembre che per carità era il novembre dello spread ai massimi della crisi del governo Berlusconi, però insomma a novembre, al di là dello spread, non è che le imprese smettono di lavorare per lo spread, però i dati che abbiamo aggregati sono emblematici, cioè la produzione industriale torna a fermarsi a novembre e via gli ordinativi e quant'altro. Leva. Sì, assolutamente, perché noi diciamo dicembre è sempre un mese abbastanza morto perché ha molte vacanze rispetto al fatturato, intendo. Quindi la si sente sostanzialmente da gennaio. C'è un abbassamento del fatturato nei primi due mesi, adesso vedremo il terzo mese, ma siamo a questi livelli. Ma se posso introdurre un altro elemento, adesso si è perso tanto tempo, speso tanto tempo per l'articolo 18, la riforma del lavoro, e secondo me si è parlato sempre rimandando della crescita. È la crescita che manca sostanzialmente. Con la crescita noi evitiamo anche di parlare dell'articolo 18, perché si supera, è sperabile, un certo tipo di crisi, quindi non possiamo neanche pensare ai licenziamenti. L'articolo 18 diventa pleonastico. Oddio, detto da un imprenditore, ne prendiamo atto. Sì, devo dire per correttezza che l'articolo 18 e tutto il dibattito che c'è attorno non è solo per i licenziamenti in stato di crisi, ma è anche per rendere meno ingessato il mercato del lavoro in uscita, cioè sì, anche in un momento di crescita uno può avere, diciamo, però è chiaro che la parte della modifica dell'articolo 18 che riguarda lo stato di crisi, esatto, quella per questo, cui sono previste i 15-27 mensilità, quella riguarda solo la crisi. Poi ci sono purtroppo aziende che sono in crisi anche quando l'economia cresce. Certo, ma c'è anche un altro elemento proprio su questo. Se un'azienda è in crisi, vicina quasi alla chiusura, per paradosso, come fa a pagare o 15 o 27 o 28? Questo è un buon punto che molti suoi colleghi hanno messo in evidenza nelle mail e negli SMS. Sa, il vivere, io dico a pian terreno, cioè vivere ogni giorno la fabbrica, il mercato, è diverso che stare a una scrivania a elaborare dati. Ho un microfono, perché spesso ci accusano di essere distanti dalla realtà, in realtà io vado a fare la spesa, vado al mercato, vado fuori come tutti voi. Comunque, sento una cosa, siccome lei vuole parlarmi anche delle cause che ha intentato per anatocismo, abbiamo degli ascoltatori che ci chiedono costantemente di parlare dell'anatocismo bancario, c'è il metodo, la pubblicità, poi torniamo in diretta con lei. 349-238-6666 per i vostri SMS. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, continuiamo a parlare con uno di questi imprenditori che usiamo come esempio, come caso emblematico, Giacomo Leva, appunto, 45 dipendenti, 7 milioni di euro di fatturato. Dopo che ci ha raccontato qual è stata la sua esperienza con le banche già nel 2009, avevo accennato al fatto dell'anatocismo. Allora, l'anatocismo è la capitalizzazione degli interessi su un capitale. La cosa sgradevole dal punto di vista bancario è quello di capitalizzare, cioè sommare al capitale di un debito che tu hai residuo gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se questi interessi sono stati regolarmente pagati. Allora, lei ha fatto 14 cause praticamente a tutte le banche? Praticamente a quasi tutte le banche. Ho escluso per adesso le due banche principali che mi stanno aiutando. Ma, però dovrei tenere com'è come che nasce momento questo, di trattativa. Questo fervore iconoclasta sull'anatocismo? Beh, prima di tutto dal fatto che darebbe liquidità. Sono sopravvenienze attive quando entrano in un bilancio. E poi anche per la consapevolezza di essere stati fregati sostanzialmente. Perché l'anatocismo ha una sua valenza, ma è la punta dell'iceberg, quello che ci sta dietro, che il tasso oltre la soglia di usura è l'elemento principale che porta anche a cifre più grosse. Perché, se posso spiegare tecnicamente in un minuto, il momento in cui ho un debito, cioè un rosso di cassa di 100.000 euro e alla fine del trimestre faccio cifre inesistenti, vale, mi fanno pagare il 10%, e allora io al primo di aprile ho 110.000 euro. Certo. Al secondo trimestre loro dovrebbero calcolarmi gli interessi, certo, sui 100.000, se rimane la stessa non cifra, ma noi semplifichiamo, non sui 110. Ma questo è esponenziale, perché al terzo trimestre certo, il 6% che loro applicano sempre diventa in realtà il 6,6, poi il 7,2, il 7,8, eccetera, arrivando appunto a tassi parecchio oltre. Come stanno andando queste cause? Allora, prima di tutto c'è una prassi. La prassi è: io con un perito mi faccio inserire i miei dati, faccio le fotocopie sostanzialmente degli estratti conto, inseriscono, utilizzando degli algoritmi, direi corretti rispetto a quelli che inseriscono le banche. Dopodiché lei manda una lettera alla banca e contesta questo atteggiamento. La banca, le assicuro, assolutamente in fotocopia, tutte le banche rispondono nello stesso modo, in due righe, dicendo: no, noi siamo regolari. Allora, noi rimandiamo un'altra lettera che chiaramente mi ha preparato il mio consulente, di 5-6 pagine, dove si inseriscono tutti perché, secondo noi, non è così. A quel punto le banche hanno delle risposte quasi sempre uguali ancora, sempre che contestano, ma variano un attimo. Poi c'è l'obbligo di passare attraverso... Quando lei contesta non dà delle cifre, dice solo: sì, io sono in queste condizioni. Dopodiché c'è l'obbligo di passare alla Camera Arbitrale. A quel punto lei fa un'istanza alla Camera Arbitrale dove indica anche la cifra. La Camera Arbitrale convoca la banca, che può venire o non venire. Se non viene, viene stilato il giorno in cui ci deve essere l'incontro un verbale nel quale si dice: la banca non è intervenuta. E c'è una nota, diciamo, una negatività nei confronti della banca. Questo non vuol dire che perché non è venuta il giudice poi quando si va in tribunale dia ragione a lei per forza. E poi si va in tribunale perché dobbiamo poi chiudere. Si va in tribunale. Quelli che vengono invece possono, come mi è successo già in due casi, concordare. E quindi si incassano i soldi fisicamente in 7 giorni, 10 giorni, quello che è, e ci si può mettere d'accordo. Io infatti la prima, che è stata l'apripista un po' per dare un senso di è successo, io ho accettato il 70% di quello che chiedevo, che non è male, era anche una cifra interessante, per cui faceva comodo. In due casi abbiamo chiuso, in tre casi invece le distanze erano ancora notevoli, cioè per cui non mi interessava accettare quello che mi veniva proposto. A quel punto sono state fatte al tribunale la richiesta. E com'è andata in tribunale? Beh, abbiamo appena cominciato. Cioè perché... Vabbè, allora io però... devo dire una cosa per concludere. Pagare gli interessi sugli interessi è obiettivamente una cosa sgradevole, nel senso che è contro la legge, no? Oltre che sgradevole, siamo d'accordo, però insomma... Lo dico anche alle banche, il ragionamento è chiaro: se io ho il 10% e sto pagando 110.000, alla seconda scadenza non mi fai pagare il 10% di 110.000, ok? Mi fai pagare il 10% dei 100.000 iniziali, perché sennò ogni volta... Perché il tasso sostanzialmente dovrebbe essere annuo. È ovvio, il tasso dovrebbe essere... Sennò fammi pagare la rata annua, così, nell'anatocismo. Gli diamo un grosso colpo. No, perché il secondo anno lo ritrova. Appunto, però almeno lo vedi meglio, non so come dirti, perché il problema del trimestre è che lo vedi, che ti può anche sfuggire. Senta, in bocca al lupo a lei e ai dipendenti, ma lei ha licenziato qualcuno? No, assolutamente no. Per adesso è chiaro che non vorrei mai, perché non 45... rovini il fine settimana i suoi dipendenti. Dai. No, ma 45 persone con 40 anni di lavoro, io ho gente che è con me da quando ho i calzoni corti, li conosci le famiglie, i figli, vai ai battesimi, quindi è un dramma umano se lo dovessi fare. Vabbè. Però vabbè, per adesso siamo ancora abbastanza lontani, insomma. Grazie a Giacomo Leva, amministratore unico della Leva Arti Grafiche. Buonasera. Dovete essere più ottimisti, scrive qualcuno, ma insomma guardi, dovremmo essere il più possibile onesti e raccontare quello che capita, ottimisti, pessimisti, queste sono cose che lasciamo ai politici in campagna elettorale. E poi non mi sembra che Leva abbia chiuso con tutto questo pessimismo cosmico, insomma. Però ascoltiamo anche poi la vita di tutti i giorni di chi fa impresa con pochi dipendenti, con pochi contatti, con pochi salotti. Non è che possiamo sempre occuparci del San Raffaele e di Fondiaria Sai, che invece lì i salotti c'erano e anche i crediti. La borsa. Il invariate per buona parte della giornata, chiudono leggermente positive, più 0,21% Milano, più 0,11 Parigi, più 0,21 Francoforte, più 0,35 Londra, più 0,22 l'America, euro a quota 1,32,65, molto timore sugli spread, ma ne parleremo dopo, di Spagna e Portogallo, vedo degli sbadigli in regia, se volete cambio ritmo e tema. Buzzi Unicem più 4,45%, Mediolanum più 4,40%, Enel più 4%, Salvatore Ferragamo più 3,80%, Diasorin più 3% come Exor, il 2,5% lo guadagna Pirelli, il 2,20% in pregiro, l'1,70% la Popolare di Milano, l'1,60% l'Ansaldo STS, ma anche Steam Microelectronics e Fiat più 1,30%, invece Monte dei Paschi meno 2%, A2A meno 1,80%, Snam meno 1%, Eni meno 0,80%, siamo riusciti a risvegliare anche la regia e allora... Ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a voi. La giornata negativa e timori appunto dello spread, li ricordavamo, ne parleremo dopo. Mediolanum. Mediolanum invece è andata, come si suol dire, alla riscossa. Ieri aveva perso il 4,4% dopo la diffusione dei conti 2011 che vedevano un utile netto in calo del 70%, oggi invece la borsa ha preferito concentrarsi su quelle che sono le previsioni per l'esercizio in corso. Col patron appunto di Mediolanum, Ennio Doris, che ha detto che il primo trimestre sarà esplosivo, ieri la borsa non gli aveva creduto, oggi sì, perché Mediolanum ha guadagnato il 4,37%. Allora, ancora, tra chi ha guadagnato, Mediolanum, l'abbiamo detta, Buzzi Unicem più 4,45%, Enel Green Power, piano industriale oggi, no? Eh sì, Enel Green Power oggi ha presentato un piano industriale decisamente ambizioso, ha guadagnato il 4%, è un piano industriale che vede un EBITDA, quest'anno 1,7 miliardi, un EBITDA che poi diventerà addirittura di 2,6 miliardi nel 2016, ovviamente si tratta di stime, di proiezioni che comunque il mercato ha interpretato in modo positivo. Poi c'è la politica dei dividendi, qui si conferma un payout del 30%, ciò significa che su 100 euro di utili, se si ipotizzano, 30 verranno destinati a dividendi nei prossimi anni. Vale la pena anche di dire che la performance di Enel Green Power oggi vale per così dire doppio, perché le principali utility come A2A o Snam hanno perso terreno. Eh sì, ancora Diasorin si ripiglia un po', più 3%, Salvatore Ferragamo più 3,80%, Exor più 2,90%. Strano Fiat, cioè le bisarche bloccano la produzione degli stabilimenti, però Fiat guadagna, più 1,30% Fiat Auto, più 1,13% Fiat Industrial, Exor più 2,90%. C'è qualche motivo? No, non particolare, però ricordiamoci che questa settimana il settore auto ha pagato pesantemente dazi. Sì, ho capito, ma ha gli impianti fermi e la gente compra il titolo, vabbè. Se per questo anche le vendite in Italia non è che entusiasmo. No, non vorrei che fosse... Vabbè, no, non faccio la battuta su Fiat. Dai, andiamo avanti. Pirelli più 2,5, Impregilo più 2,20 e Ansaldo più 1,60% come Steamicro Electronics. Di nuovo forte il settore delle costruzioni a livello europeo. Sì, e poi in Italia c'è anche il caso Buzzi, che è il migliore, quello, 4,4%, sì. Nelle ultime due tre sedute ci sono e in pregilo, ma lì c'è più Salini, poi volumi, c'è... Sì, anche in pregilo, qui la scommessa è più semplice, di nuovo sopra 3 euro si scommette sempre su questa battaglia che poi si giocherà a giugno, probabilmente in assemblea tra i Salini e i Gavio, per il controllo della società. Allora, no, è inutile fare la battuta, credo che alcuni la scrivono, la Fiat guadagna quando sta ferma, dai, su, non è una bella battuta. Traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, concludiamo l'approfondimento di borsa. A2A, peggior titolo, CEO, dopo il Monte dei Paschi. Allora facciamo Monte dei Paschi e A2A, meno 2% Monte dei Paschi, meno 1,80% A2A. Di Paschi rallenta la cessione del pacchetto fino al 15% in mano alla fondazione, rallenta perché il titolo nelle ultime sedute ha guadagnato molte, quindi la fondazione ora che sta leggermente meglio grazie alla rivalutazione del titolo dal punto di vista patrimoniale sta cercando di spuntare condizioni migliori agli acquirenti. A2A invece oggi ha presentato il bilancio, un bilancio in perdita per oltre 400 milioni, ma soprattutto a causa della minusvalenza su Edison. Sempre oggi A2A poi ha deciso di staccare un dividendo praticamente simbolico, in tutto il monte dividendi sarà di 40 milioni e la borsa l'ha spinta nuovamente sui minimi storici. Migliori e peggiori, Mondo TV più 15, Poligrafici Printing più 8,78, Banca Ifis più 8,60, Saras più 8,40, peggiori Meridiana Fly che vola vola il titolo oltre che la Meridiana, meno 7,90, ieri era il miglior titolo, Sintesi meno 5,40, Pininfarina meno 4,77%. Grazie a Ciò Condino, buon fine settimana a tutti i colleghi. Grazie di Radio Coro, il Sole 24 Ore. Allora, benzina, nuovo record, così diamo una botta di ottimismo a tutti, nuovo record a un passo da 1,90 al litro e i consumatori fanno il calcolo, con il caro prezzo della benzina 10 miliardi in più nelle casse dello Stato, in più, questi andrebbero in qualche modo, Monti, per favore, facci sapere, o li usi per il deficit, per il debito, ma o se no iniziamo una piccola manovra fiscale con questi, non so, almeno i soldi che mettiamo nel... per fare il pieno nell'automobile, poi ci potrebbero tornare indietro come riduzione fiscale. 516 euro per ogni automobilista, il rialzo della benzina nell'ultimo anno, in un anno. 516 euro, ci sono alcuni che salutano le vacanze. E la Confcommercio, oggi inaugurando 2 giorni di lavoro a Cernobbio, dice: attenzione, i piccoli negozi sono in forte discesa come andamento del vento a dettaglio, siamo tornati indietro di 14 anni come consumi, il PIL è tornato a livelli del 99, siamo riusciti a raggiungere, mi fanno segno il presidente della Confcommercio che è uscito un secondo dal convegno di Cernobbio, Carlo Sangalli, buonasera, che cosa chiedete al governo, visto che sull'articolo 18 comunque è solo riforma del mercato del lavoro, tutto sommato avete avuto un giudizio abbastanza positivo, neutro, che cosa chiedete al governo, Sangalli? Dunque, tante questa situazione che io posso riassumere così, visto che i dati che abbiamo presentati sono dati che dicono tutto della drammaticità e della gravità e della durata della recessione, io penso di poter sintetizzare dicendo che noi siamo di fronte ad una triplice, ad un triplice allarme. Allarme recessione ed occupazione, allarme aumenti dell'IVA perché nel quadriennio 2001-2014 rischiamo che vengano bruciati 38 miliardi di consumi, allarme pressione fiscale, basti pensare che per i contribuenti in regola si raggiunge il record del 55%. Dunque è tempo in Europa ed in Italia di integrare la disciplina fiscale di bilancio con un robusto pacchetto di scelte e di riforme che sospingano la crescita, in particolare gli investimenti infrastrutturali. È tempo di una determinata spending review in cui i risparmi devono disinnescare la mina degli aumenti IVA ed è ancora tempo di una spending review che in parallelo al recupero di evasione ed elusione sia la condizione per un progressivo alleggerimento della pressione fiscale per le imprese e le famiglie. Tutto questo in un rapporto di collaborazione tra banche ed impresa senza il quale l'Italia non riparte. Allora, Sangalli, io so che lei ci deve lasciare, grazie anche per il tempo che ci ha concesso. È chiarissimo quanto lei sta dicendo, cioè avete digerito le manovre del governo Monti, ma adesso chiedete riduzione della spesa pubblica, questa è la spending review, quello che dovrebbe fare il ministro Giarda, attendiamo notizie, e poi anche la pressione fiscale su chi le tasse le paga. Devo dire che insomma sacrifici record e tasse ai massimi e di nuovo questa è una brutta notizia, veramente, non è una notizia di cronaca. C'è stato un altro caso di un imprenditore che si è suicidato, c'è un numero verde, adesso magari dopo nella seconda ora del programma ve lo do, che ha individuato la CGA di Mestre per gli imprenditori di qualunque livello che si trovassero veramente in difficoltà prima di compiere gesti estremi veramente inutili. Era un imprenditore di Pescara 40 anni, da inizio anno siamo a già 40 imprenditori che si sono suicidati. Vabbè, sentite, andiamo con il GR, poi vediamo se riusciamo a recuperare il numero di SOS imprese, non mi ricordo più il nome esatto, e poi cerchiamo di capire che cosa stia di nuovo preoccupando i mercati su Portogallo e Spagna, ma non solo. 349-238-6666 per i vostri SMS. Focus Economia. 18 e 8 minuti. Allora, adesso parliamo di dello spread, delle tensioni sulla Spagna e il Portogallo e di quello che sta e delle preoccupazioni che stanno trapelando a livello europeo. Avevo promesso però di fornire il numero verde messo a disposizione dalla Confartigianato. In questo caso conosciamo solo il caso della Confartigianato di Asolo Montebelluna. È il numero verde antisuicidi 800 1301 31, visto che c'è stato un altro caso purtroppo oggi di un imprenditore nel Pescarese. E tra l'altro proprio la l'artigianato di Asolo Montebruno ha fatto sapere che stanno arrivando almeno una chiamata al giorno da quando hanno istituito questo servizio di consulenza tecnica, legale e psicologica a chi è in difficoltà. Dal rapporto banca imprese, in attesa appunto che il governo, abbiamo capito, salvo intese, probabilmente vuol dire salvo intese tra le parti sociali, ha approvato tutto il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro, siamo costretti a tornare a parlare delle difficoltà della zona euro. Allora, sì, si è allargato fino a 366 punti lo spread dei titoli tra i titoli spagnoli e quelli tedeschi. Ora, visto che veniamo da mesi purtroppo in cui eravamo abituati anche a spread a 500-540, la cosa preoccupante non è il fatto che sia ripartito quello che è il costo per la Spagna per trovare finanziatori per il suo debito rispetto al costo tedesco. È la prospettiva. Alcuni analisti hanno delle prospettive, insomma, catastrofiche forse. Intanto i BTP iberici rendono il 5,53%, però economisti e analisti temono che il paese non riesca ad evitare una ristrutturazione del debito. Oddio, è una parola così brutta che ho quasi paura a dire. Cioè, ristrutturazione del debito è quello che ha fatto la Grecia, che ha tagliato del 55% il suo debito, o meglio, ridarà ai suoi creditori il 47% di quanto aveva ottenuto come prestito. Secondo Willem Buiter, capo economista di Citigroup, Madrid è messa peggio di quanto si possa pensare. Non ha mai corso un rischio di default così, di fallimento così alto. E poi, come se non bastasse, per l'Europa il peggio deve ancora venire, deve ancora arrivare. Al momento, sostiene Buiter, il vecchio continente sta sperimentando una sorta di tregua, una pausa per riprendere fiato grazie alla massiccia liquidità immessa nel sistema bancario dalla Banca Centrale Europea, ma non hanno risolto davvero i problemi. Allora, intanto non se ne abbia Willem Buiter, ma il nostro gufo scaramantico, perché sennò... Vabbè, il gufo scaramantico, certo è che lo spread del Portogallo è a 1077 punti, quello dell'Irlanda a 634, i comuni in Portogallo, dicono, le piccole municipalità sono schiacciati da 9 miliardi di euro di debiti e dicono che non riusciranno a ripagarli. E ricordo che la Spagna due settimane fa, dopo aver firmato il cosiddetto Fiscal Compact, quindi l'accordo per portare il debito di ogni paese dell'area euro al 60% entro 20 anni, ha detto quest'anno comunque non ce la possiamo fare. Dottor Vladimiro Giacchè, responsabile affari generali del fondo Sator, che è un fondo di private equity, quello di Matteo Arpe, quello che adesso è famoso perché ha tentato la scalata su Fondiaria Assai. Buonasera. Buonasera. Non parliamo chiaramente del fondo con lei, ma lei è autore di un libro che è edito da Aliberti, Titanic Europa, un libro appena uscito, Titanic Europa, la crisi che non ci hanno raccontato. Allora, lei da sempre ha posizioni molto molto scettiche sull'atteggiamento tedesco, ricordando che poi nella crisi, cioè il nazionalfascismo, socialismo, quindi il nazismo, non arrivò per l'inflazione del 29 in Germania, ma arrivò quando, una volta superata l'inflazione in Germania, si stava già sostanzialmente riportando su livelli più accettabili, la Germania decise un giro di vite tale che creò milioni di disoccupati. L'ho sintetizzata, ma è solo per dire che molto spesso si racconta che la Germania teme l'inflazione perché l'inflazione portò al nazismo. Non è esattamente così. Chiudo la mia parentesi. Anche lei è preoccupato? Sì, sono preoccupato, non tanto per gli episodi di questi giorni, ma per un motivo un po' più strutturale, che mi sembra che abbiamo affrontato questa crisi, che l'Europa ha affrontato questa crisi dal lato sbagliato, cioè quello del debito pubblico. E questa è la critica che fanno anche a Monti. Per ora si è vista solo la fase 1, cioè la fase dei tagli, della messa in sicurezza del debito, delle tasse, delle pensioni, ma manca la fase 2. È la critica che si fa anche verso la Grecia, umiliata più che punita, forse. Sì, io la penso abbastanza così. Trovo, ma direi di più, che nel caso greco credo sia evidente che le misure, tra virgolette, per salvarla hanno peggiorato la situazione. Cioè, se noi vediamo la dinamica della crisi greca, vediamo che dopo il maggio 2010 la situazione è gravemente peggiorata. E probabilmente, a mio avviso, è così, insomma, però se ne può discutere, allora, proprio a causa delle misure di austerity che sono state imposte alla Grecia. Però, già che mi faccio difendere chi, insomma, la trilaterale, il Fondo Monetario, la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea, anche quando hai una malattia, all'inizio, quando prendi la medicina, puoi avere lì per lì, puoi anche stare peggio, cioè puoi essere indebolito, non so come dirti. Uso un esempio non molto bello, la chemioterapia. Ok, sì. Però in realtà nel medio termine è quella che poi debella o riduce il cancro. Non potrebbe essere così anche nel caso greco? Cioè, all'inizio è chiaro che le misure sono così forti che c'è una botta iniziale fortissima, però che ti rimette su un percorso di risanamento. Sai, il problema è quali sono le prospettive di ripresa per un'economia e in che tempi per un'economia che perde il 15% di prodotto interno lordo in 2 anni. Non è ovvia come risposta, insomma. Ecco, se qualcuno alla BCE ce l'ha da darmela, se me la comunica, io sono felice. Allora, facciamo una cosa, siccome su questo vorrei poi tornare, mandiamo il traffico e poi molti ci hanno scritto in questi giorni hanno fatto l'esempio di come è uscita l'Argentina dal suo fallimento rispetto alla Grecia. Da qui vorrei ripartire. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Allora, dottor Giacchè, c'è chi ricorre all'esempio argentino. Vi ricordate il fallimento, il crack dell'Argentina? E dice, anche lì ci fu una cura da cavallo e il paese appunto fallì. Però quello che capitò in Argentina è che l'Argentina poteva svalutare il peso, infatti lo svalutò, e quindi questo creò un costo della vita carissimo per tutti i beni importati, perché diventarono improvvisamente carissimi, però permise alle imprese argentine nel corso del tempo, con un peso così debole, di aumentare molto le esportazioni, perché i loro manufatti, i beni, costavano meno ed erano competitivi. Nel caso della Grecia, invece, siccome non si poteva svalutare l'euro, perché l'euro è di tutti, non è solo greco, e la Grecia non ha più la dracma, si è deciso di svalutare il costo del lavoro riducendo i salari. Ecco, secondo lei la differenza tra le due misure qual è? Ma dunque, intanto vorrei purtroppo introdurre un elemento non molto positivo. In realtà, anche quando si svaluta la valuta, si riducono i salari. Certo, perché tutto quello che importi ti costa tantissimo. Esatto, soprattutto se hai un'economia aperta che importa molte cose. Per cui, no, è che nel caso greco abbiamo solo svalutato i salari, mentre io vorrei capire se si può pensare che le imprese greche abbiano lo stesso beneficio che avrebbero avuto a svalutare una eventuale dracma. Ma io credo di no, io credo che il punto sia esattamente questo, che l'unica misura che è stata realmente assunta è stata appunto la deflazione salariale in varie forme, licenziamento dei dipendenti pubblici ad esempio un'altra forma, no? Evidentemente. Allora, questo nella situazione greca deprime in maniera tremenda la domanda e fa avvitare l'economia. Ma questo secondo lei vale anche per la Spagna e Portogallo? C'è il rischio anche lì? Perché sa, la Grecia ormai l'abbiamo in questo limbo, lasciata così ristrutturata. sai, il vero problema è come affrontiamo appunto il problema degli spread, cioè della percezione del mercato sui titoli di Stato di alcuni paesi. Io, questo l'ho scritto nel mio libro, insomma, non credo di essere l'unico a dire queste cose, per la verità. Io ritenevo prima e continuo a ritenere che l'unica vera soluzione di emergenza a questa crisi, sottolineo di emergenza perché poi le cause strutturali sono un'altra cosa, sarebbe la cosiddetta monetizzazione del debito da parte della BCE. Cioè la BCE che dice, fissa un tasso obiettivo e dice i titoli di Stato dei paesi dell'area euro non possono superare, diciamo, questo rendimento. Se lo superano io intervengo, se necessario anche stampando moneta. Allora si è menato molto scandalo. Lei sa che in questo modo se ci ascolta un tedesco sta rischiando l'infarto, vero? Sì, però io credo che il tedesco avrebbe motivo di rischiare l'infarto anche riguardo a quello che sta già facendo la BCE, che ha messo sul mercato 1.000 miliardi di euro, però non li ha dati gli stati ma le banche. Certo. Credo che qualche piccolo problema cardiaco possa insorgere anche in questo caso. Ma infatti la Bundesbank non solo hanno manifestato con una lettera che poi è finita anche sui giornali la loro contrarietà alla linea di Mario Draghi di fatto stampare moneta anche se per un tempo determinato, cioè questo prestito di 1.000 miliardi vuol dire che fra 3 anni dovranno ridare, altro non è che stampare moneta provvisoriamente, diciamo, mettiamola così. Esatto, guardi, sì, o meglio ancora da un punto di vista tecnico, probabilmente autorizzare le banche private a stampare moneta, no? Perché è il collaterale, certo. È il collaterale che loro offrono. Ma sì, il punto però è che io credo che questa opposizione della Germania su questo sia abbastanza di facciata e blanda, anche perché sennò avrebbero votato contro, evidentemente anche loro siedono nel board, per un motivo molto semplice, che i soldi alle banche fanno molto comodo anche in Germania. 460 banche tedesche? Esatto. Ne hanno fatto uso? Non poco. Vede, questa è la differenza. Ecco, però mi dica una cosa, Jack. Allora, lei dice, stiamo rischiando di ammazzare il cavallo con la cura, se posso usare un termine un po' forte. Bisogna fermarsi a un certo momento, perché sennò tu, ho capito, un po' come quando i cerusici del 1006 curavano i malati con la sanguisuga, no? Convinti che levando il sangue si levasse il male, in realtà spesso sfinivano un paziente già debilitato. Allora, la sua soluzione però qual è? Perché lavorare sul fronte della domanda e quindi tornare a far ripartire i consumi, a far respirare le imprese, significa poi soldi pubblici. Non ne conosco altri. Sì, significa soldi pubblici. La mia idea, per la verità, è anche un'altra, che si debba ricominciare a fare politica industriale nei nostri paesi, insomma, cioè orientare gli investimenti verso dei fini che sono considerati desiderabili e scoraggiarli. Ma lei vorrebbe una BCE che si mettesse a stampare moneta in questo momento, cioè come la Federal Reserve? Perché c'è chi dice che prima o poi l'America collasserà su tutta la liquidità che ha stampato, e l'America viaggia con un deficit al 10%. Per carità, per ora però l'inflazione negli Stati Uniti è del 3,5%. Cioè noi dovremmo imbarcare un po' di inflazione. Noi dovremmo imbarcare un po' di inflazione, sarebbe saggio perché, come sa, con una dose ovviamente moderata di inflazione si attacca anche il debito. Il debito. Pubblico, no, vedo il tecnico che mi guarda sorpreso. Come l'inflazione? Perché è cresciuto in un'età in cui l'inflazione era una bestemmia. Però no, ha ragione, perché venivamo dagli anni 70-80 in cui l'inflazione viaggiava a due cifre, no? E quello è un dramma, perché vuol dire che tu non riesci, ti impoverisci perché il tuo stipendio chiaramente perde valore e tu non riesci a rinegoziare lo stipendio ogni mese o ogni anno quando hai l'inflazione al 18%. Però se ho ben capito il ragionamento di Jack, le dice un po' più di inflazione, 2-3 punti, fino a che punto? Fino al 6%? Ma guardi, sinceramente siamo molto al di sotto. No, adesso siamo al 2-3, al 3-3, 3-1, 2-8. Però le faccio anche, mi permetto anche una provocazione. L'inflazione sale anche in altro modo. Se io aumento l'IVA dal 20 al 21% giusto, e poi al 23%, l'inflazione è automatica praticamente. Cioè, però è un'inflazione cattiva, perché crescono i prezzi non perché tu guadagni di più, ma perché ci sono più tasse, oppure perché il petrolio costa più caro e la benzina... E come lei sa, le tasse indirette sono regressive, cioè colpiscono di più chi ha meno soldi. Purtroppo sì. Quindi lei dice imbarchiamo un po' di inflazione stampando moneta, chiarisco tutto il concetto, se l'inflazione aumenta un po' è chiaro che diminuisce in termini reali anche il tuo debito, perché il debito è un valore nominale, no? Allora è 1000, se però hai un'inflazione al 3% diminuisce, no? Giacché me la fa passare questa messa in maniera un po' impropria. Possiamo dirla così. E quindi l'unica soluzione per lei è che la BCE si metta a stampare moneta, ma sa che stiamo ragionando di così di Alice nel Paese della Meraviglia, la Germania non lo accetterà mai. Non lo accetterà sino a quando non sarà chiaro che anche i suoi interessi forse sarebbero meglio difesi così. E penso che nel momento in cui si avesse una deflazione, una depressione generalizzata nei paesi verso cui la Germania all'interno dell'Unione Europea esporta molto, forse qualche ripensamento potrebbero averlo pure loro. Però io vorrei sottolineare una cosa, che non è necessario a volte in questi casi stampare moneta. Quando la Banca Centrale Svizzera ha deciso di mantenere il tasso di cambio con l'euro, non fargli superare la soglia di 1,2 perché stava devastando le loro esportazioni, cioè il franco diventava troppo forte, la Banca Centrale Svizzera ha detto una semplice cosa, ha detto: volete i nostri franchi? Siamo disponibili a stamparne quanti ne volete. Sappiate che da domani il nostro rapporto di cambio con l'euro non potrà superare l'1,2. I mercati il giorno dopo si sono situati su quel rapporto e non hanno dovuto stampare neppure una banconota. Cioè lei dice, se la BCE dicesse domani, signori, sopra un rapporto di 1-1 col dollaro... Sopra i titoli di Stato dell'Italia, certo, non possono superare il 5% complessivo. Altrimenti intervengo io. È presumibile che, se è seria questa minaccia, i mercati si situino direttamente su quel livello. È evidente che se invece la BCE fa quello che ha fatto sinora, dice io compricchierò qualcosa, però mica illimitatamente, Questo è un modo perfetto per testare i mercati, perché i mercati vadano a testare sino a quanto sei serio e dunque praticamente fanno... Cioè la moral suasion è sufficiente la minaccia di stampare moneta, o nel caso di quello che fa lei, di quello che dice lei, cioè la minaccia di andare a comprare per lasciare i rendimenti a un certo livello per probabilmente posizionare i mercati a quel livello. Chiarisco per tutti i pensieri di Giacchè, è se la Banca Centrale Europea dicesse attenzione, i BTP o i bonus spagnoli non possono rendere più del 5%, vuol dire che se iniziano a rendere il 5,3 la BCE interviene per abbassare il loro rendimento, chiaramente aumentandone il prezzo, e a quel punto, se ho ben capito il suo ragionamento, i mercati, sapendo che interverrebbe la banca, non vanno a scommettere su un BTP o un bonus spagnolo che vada a rendere così tanto. Ho capito bene? Sì, la penso così. Ma secondo lei si arriverà a questo, cioè si arriverà al punto per cui la Germania, non esportando più nei suoi mercati di riferimento, quasi il 50% dell'export tedesco va in Europa, capirà che la linea del rigore è la linea del rigor mortis? Mi auguro che a questo si arrivi in tempi non geologici, perché appunto poi in tempi... E non biologici, visto che cercavo... Esatto, perché nel lungo periodo poi siamo tutti morti, come diceva Keynes. Vabbè, grazie per questa botta di entusiasmo e di ottimismo. Grazie al responsabile degli affari generali del Fondo Sator, Vladimiro Giacchè. Arrivederci, grazie a voi. Vabbè, e col lungo periodo chiudiamo, direi, nell'augurare a tutti voi un buon fine settimana. Vedo l'America che adesso guadagna lo 0,34%. Nel ringraziare, come sempre, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, vi do appuntamento a lunedì. Saremo in diretta dal Vini Italy. Speriamo un po' di euforia, non ebbrezza, ma euforia, almeno sì, quello è un settore che va benissimo, la crisi non la sente, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.